può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto in questo sabato di dicembre. Come sapete, io tutti i sabati faccio anche la rassegna stampa, no? La rassegna stampa leggo oggi come tanti altri giorni nel passato, ma oggi in particolare una raffica di vieti, di cose che non si potranno fare nella settimana prossima, nelle settimane a venire. E anche se ho cercato dentro di me di girarla in positivo, beh, certo resta un po' difficile. Devo decidere se lasciare a casa mia figlia quindicenne o lasciare soli i nonni, insomma tutta una serie di questioni che tutti voi ben sapete, ben conoscete, dovrete affrontare voi come me nei prossimi giorni, nelle prossime ore in realtà, perché ci siamo veramente veramente vicini. In ogni modo, in una situazione così facile pensare negativo, quello che vogliamo fare noi invece oggi è cercare di pensare positivo. Non vi faccia sorridere, non pensiamo alle canzonette, però è proprio questo: dobbiamo pensare positivo, dobbiamo pensare ad aiutarci a vicenda nel nostro quartiere, nel nostro condominio dove saremo. Dovremo cercare di rafforzare questo spirito di comunità e superare questo periodo insieme con una certa gioia, con una certa serenità, nella sicurezza ovviamente di tutte le persone che ci circondano, nella sicurezza del nostro paese, perché se ci lasciamo andare sicuramente non ne verremo fuori. Se ci lasciamo andare non riusciremo a progettare il futuro. Il futuro invece è quello che conta per noi in questo momento, per me, per mia figlia, per i nostri figli, per i nostri nonni. Pensare al futuro, pensare a un futuro diverso, non c'è bisogno di tornare al passato tout court, anzi vogliamo andare nel futuro, futuro migliore. Cominciamo con il nostro primo ospite, che sicuramente ha guardato al futuro nel fare l'operazione che ha fatto e che porterà avanti nelle prossime settimane. Il nostro primo ospite è Edoardo Filippo Scarpellini, amministratore delegato del gruppo Milano Card, che ha dato vita al network Quotidiana. Buongiorno. Buongiorno. Allora, è un po' anche questo, no? Il vostro obiettivo, guardare al futuro. Siete partiti dalle edicole, che sono tante, via via chiudono nelle nostre città, e avete pensato come possiamo cambiare questa situazione, come possiamo rendere queste edicole utili, anzi importanti per i quartieri nei quali appunto sorgono. Certamente, mi ricollego a quello che ha detto. In un momento di crisi sul fronte economico bisogna ovviamente essere stimolati invece a guardare dopo e trovare le opportunità che ci possono essere. La rete di edicole è una rete che in tutta Italia soffre in maniera importante, anche durante i mesi del lockdown, seppur erano delle poche attività che potevano rimanere aperte, hanno comunque chiuso a raffica un mare di edicole. È stato introdotto una riforma normativa dal 2012 in poi che permette in verità alle edicole di fare molto altro, di diventare di fatto delle piattaforme distributive, oltre ovviamente a rimanere principalmente luoghi dove vendere la stampa. Noi abbiamo appunto analizzato questi importanti interventi normativi e abbiamo messo a terra un progetto che è un'impresa ormai a tutti gli effetti e che appunto vuole riportare le edicole come centri delle piccole comunità che sono i quartieri, che poi nell'insieme costituiscono le città. Quindi oggi in edicola, nelle edicole di Quotidiana, è possibile, oltre a comprare i giornali, è possibile fare la spesa con oltre 320 referenze, ma è possibile anche accedere ad una vasta rete di servizi alla persona che hanno adattato alla badante. E adesso ci arriviamo, infatti, perché l'offerta, diciamo, nelle edicole c'è già una piccola offerta di prodotti diversi dalla stampa, però voi avete un progetto assai diverso. La prima edicola a Milano è già attiva, è già partita, sì. È stata inaugurata. Quante pensate di trasformarne nei prossimi mesi? Ma guardi, ad oggi tra acquisti e compromessi ne abbiamo a portafoglio 38 già solo su Milano, abbiamo chiuso i primi accordi anche su Roma e su Torino, quindi insomma è una rete importante, vasta, e che soprattutto capillare. La forza delle edicole è essere capillari, e quindi abbiamo appunto anzitutto lavorato in questa direzione. Quindi diventano un punto in cui ci saranno anche degli alimentari, però appunto diceva anche servizi alle persone. Ho letto di babysitting, ho letto addirittura, no, di servizi di accompagnamento per gli anziani. Cioè l'idea è di far sì che lì si possa andare a chiedere questo tipo di supporto e di aiuto, e che da lì si ottenga un indirizzo. Assolutamente, noi abbiamo chiuso degli accordi con importanti realtà che garantiscono un ottimo servizio su questo tipo di, appunto, di proposte e puntando tutto sul reincentivare i rapporti umani, soprattutto in un momento come questo dove le persone non per propria volontà, per esigenza, però si sono dovute sempre più isolare e dobbiamo però pensare, ecco, come poter tornare alla vita di relazione che poi è la vita che consente lo sviluppo della società e quindi la possibilità di andare sotto casa o nella strada a casa lavoro e poter trovare un luogo affidabile dove poter, oltre ad acquistare beni e servizi, come ho detto prima, anche avere suggerimenti e indicazioni per i servizi alla persona anche più intimi, pensiamo a quanto sia importante avere una tata, una badante affidabile, per non parlare di altri servizi, è quello che noi abbiamo realizzato. È molto, molto interessante questa anche commistione di, diciamo, attività di business e imprenditoriale e un'attività di solidarietà che cercate di unire all'interno di queste edicole. Certo, questo nel pieno spirito milanese che coniuga appunto sempre crescita e solidarietà e quindi abbiamo anche affidato la gestione di questi luoghi a realtà di primissimo piano del terzo settore milanese che hanno permesso a persone con varie fragilità, tra cui in particolare in questo momento fragilità economiche, persone magari anche over 50 che avevano perso il lavoro, di ritrovare un'occasione non solo di lavoro, ci tengo a dirlo, ma anche di formazione, perché c'è un importante strutturato percorso di formativo per chi entra a lavorare nel nostro network, sia perché crediamo fermamente nel valore della risorsa umana che deve essere quindi formata, sia perché è fondamentale poter offrire un servizio di qualità e affidabile per i nostri clienti. Ma come sono stati selezionati appunto gli edicolanti che non saranno più edicolanti? Grazie appunto al supporto di queste cooperative siamo appunto andati a ricercare. Cioè non sono quelli originari proprietari? No, assolutamente, anche perché il lavoro da vecchio edicolante lavora anche, io lo definirei usurante, e quindi le persone che ci hanno venduto le loro edicole erano anche persone che avevano sulle spalle veramente un carico lavorativo ormai non più sopportabile, e quindi abbiamo completamente rinfrescato la rete portando nuove energie e anche una visione leggermente diversa, molto più imprenditoriale rispetto a quello che poteva essere l'edicolante classico, diciamo. Ok, quindi sono persone che iniziano questa attività, prima ne avevano altre, appunto magari sono giovani, magari sono persone che erano uscite dal mercato del lavoro, però non erano gli edicolanti precedenti. No, ecco, assolutamente no. Ho visto un progetto enorme che comprende anche proprio l'architettura di queste edicole, cioè si vuole dare un'immagine quasi standard, come se uno appunto trovandosi in questo caso a Milano, andando in giro per quartieri, riconoscesse subito: questo è un punto nel quale io posso andare a chiedere certe cose, qualunque certo quartiere sia. Assolutamente, le edicole sono, i manufatti delle edicole sono degli elementi dal nostro punto di vista fondamentali nell'architettura urbana, nell'arredo urbano, e quindi meritavano di tornare ad essere luoghi belli, sicuri, accoglienti, ed è quello che abbiamo fatto restaurando e non sostituendo i chioschi che c'erano. Questo è un elemento importante, abbiamo chioschi di proprietà che risalgono ai primi anni del Novecento, quindi sarebbe stato veramente un delitto sostituirli, ma soprattutto avvicinandoci a quello che succede in tante altre città europee, pensiamo a Parigi dove addirittura c'è una codifica per come devono essere l'architettura delle edicole, no? Ecco, a Milano non ci sono regole così stringenti, però un'attenzione particolare dai colori alle tende, a tante altre, insomma, all'illuminazione, così è stata posta, e ad oggi tutta la rete quotidiana sarà tutto uguale, seppur con le piccole differenze che ci sono nei chioschi, avendo mantenuto quelli originali, avevano tutte l'insegna quotidiana. Su alcune abbiamo anche lavorato per poter realizzare un giardino pensile sul tetto dell'edicola, la prima per esempio in via Bocconi, angolo via dei Bigni, e quindi sì. Quindi anche c'è anche il verde urbano. Assolutamente, il verde urbano, Milano, l'abbiamo infatti visto in questi giorni, è una delle città ormai, se non la città più verde d'Italia, quindi è la metropoli più verde d'Italia, quindi assolutamente anche questo. Stiamo lavorando anche su tutto il tema, per esempio, della micromobilità e della mobilità leggera, quindi realizzando anche presso le edicole dei punti di ricarica elettrici per auto, moto, monopattini. Ecco la città dei 15 minuti di cui si sta ragionando, si sta soprattutto lavorando. Sì, sicuramente, molto importante. Ma adesso volevo portarla un attimo fuori sul tema delle edicole in generale, perché noi stiamo qui parlando di Milano nello specifico e di questo vostro network. Però mi diceva, le edicole possono adesso fare altre cose, al di là del vostro network, quindi in tutta Italia uno può immaginare di trasformare la sua edicola in qualcos'altro. Assolutamente. Quali rami possono, giusto per curiosità, io ho pensato, ce ne sono un paio nella mia città che io ho detto, io qui ci farei subito un chiosco per aperitivi, per dire, adesso quando si potrà? No, questa perché è sono l'unica, in posizione fantastica. Questa è l'unica cosa, diciamo, certa che non si può fare, c'è la somministrazione all'interno delle edicole, ma che secondo me non sarebbe neanche la sua natura, cioè snaturerebbe completamente l'edicola. Le città, penso Milano, è già piena di bar, locali, chioschi, e quindi insomma non è quello. C'è stata una riforma normativa realizzata nel 2012 a livello nazionale che è molto chiara e che dice che nelle edicole si possono vendere tutte le categorie merceologiche nel rispetto delle singole regole. Quindi oggi veramente le edicole hanno un mantenendo potenziale mantenendo però gigante, anche la vendita dei mantenendo la, ovviamente la vendita di giornali deve essere prevalente però non il chiosco io faccio una, ci metto il giornale, il caffè, ci siamo. Mi sembra strano non sia ammesso. Ripeto, sulla somministrazione no, perché ci sono delle regole sanitarie poi che devono essere rispettate, che il chiosco per sua natura non può rispettare, penso al bagno, penso ad altre cose, insomma, quindi ecco, non voglio poi ammorbarvi sul tema troppo tecnico, ci sono tante altre esigenze al momento a cui le edicole possono veramente rispondere, noi crediamo di averne toccate tante, poi ce ne saranno anche altre che al momento non abbiamo ancora messo poco e che troveremo. Però ecco, veramente io credo che una volta tanto in questo paese è stato fatto una riflessione a livello nazionale, poi anche a livello locale, importante su come rilanciare un comparto economico, quale può essere quello delle edicole. È ovvio che ci sono le leggi, ci sono le regole, ma poi ci deve essere anche una visione imprenditoriale e dei mezzi per poterle attuare, perché diversamente... Condizioni, certo, delle ad esempio adesso le condizioni sono più difficili che in altri momenti, però nulla vieta di immaginare che nell'estate, no, penso anche a qualcuno che appunto sia in altre città, si possa cominciare a ragionare su dei movimenti, su delle novità, su delle trasformazioni. Insomma, le edicole abbiamo visto, vendono tantissime cose, non so quanto poi questo in realtà ormai serva a mantenerle vive, quindi forse una trasformazione è opportuna. Ma sì, come tutte le cose, o c'è un pensiero organico dal mio punto di vista, quindi che possa avere una visione, oppure cose a spot ne abbiamo viste, ma poi lasciano un po' il tempo che trovano, e ci vuole una visione, riteniamo, imprenditoriale, degli investimenti importanti. Noi già solo nel primo anno abbiamo comunque messo un investimento di 1,5 milioni, quindi ecco, ci vogliono... È un'impresa a tutti gli effetti, noi chiamiamo l'edicola, ma è un'impresa in tutti i sensi. Assolutamente. Edoardo Filippo Scarpellini, la ringraziamo davvero per essere grazie stato con noi. Buon lavoro, buon anno, buon lavoro anche. Gruppo Milano Card. Abbiamo una pausa per la viabilità, tra poco. Si può fare. Si può fare. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in jingle bell square in the frosty air. What a bright time, it's the right time. E allora torniamo insieme a questo punto. Mi sono dimenticata prima di dirvi che c'è sempre il numero verde per le vostre telefonate, sempre attivo, 800 24 00 24. e per SMS e WhatsApp 349-238-6666. Oggi parliamo del si può fare Natale. Sì, lo vogliamo fare assolutamente, lo faremo in un altro modo, anzi scateniamo la fantasia, magari se avete voglia di dirci come volete fare Natale. E probabilmente però comunque avete addobbato casa come tutti gli anni, probabilmente avete messo anche delle lucine, magari avete anche scoperto che qualcosa di elettrico, di elettronico non funzionava. Ebbene, Giorgia Rienti, direttore generale di Aerion, buongiorno. Buongiorno. Aerion è nuova, lei non è nuovo per questa trasmissione, Aerion è nuova. Cosa fa Aerion? Sì, Aerion è un consorzio che raccoglie in tutta Italia rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, si chiamano RAE, e li tratta in modo corretto, cioè ricicla le materie prime di cui questi rifiuti sono composti e smaltisce in modo sicuro le sostanze inquinanti. Che cosa c'è di inquinante, per esempio, in una fila di lampadine, in tutti questi carillon di Natale che non voglio dire cineserie perché non è colpa di, ma per intendersi, insomma, quando non valgono poco e si rompono facilmente, cosa c'è dentro invece che dobbiamo recuperare, per questo non vanno buttati? C'è un po' di rame, perché tutto il filo è fatto di rame, è un materiale che è opportuno recuperare. C'è tanta plastica che si dispersa nell'ambiente, inquina, non ci fa nulla in casa, non è tossica, non è una cosa di cui avere paura, però se poi quando la buttiamo via la disperdiamo nell'ambiente inquina e quindi va separata dal rame e poi trattata in modo sicuro. Sicuramente in questo periodo, almeno giudico dai dati che avete raccolto e diffuso recentemente, sicuramente in questo periodo con il tempo trascorso a casa molti hanno fatto la cernita di quello che avevano in soffitta o in cantina e hanno buttato regolarmente finalmente, perché vedo numeri in crescita nella raccolta. Sì, è stato uno dei pochissimi effetti positivi del lockdown, nel senso che durante i mesi, soprattutto di marzo-aprile, tutti noi ci siamo dedicati a frugare nei cassetti, nelle cantine, abbiamo fatto ordine e poi abbiamo correttamente conferito alle isole ecologiche comunali o ai negozianti. Forse perché c'era consentito uscire per quello. Quando è stato appunto possibile uscire, abbiamo conferito alle isole ecologiche comunali o ai negozianti anche i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche. Questo ha determinato una crescita delle quantità gestite, per cui chiuderemo il 2020 addirittura al di sopra di quanto avevamo fatto nel 2019, una crescita di circa il 10%, che è positiva. Diciamo che il totale annuo in Italia arriverà a sfiorare le 400.000 tonnellate di rifiuti elettrici e elettronici, ma l'obiettivo che la Comunità Europea ci ha dato è di 650.000 tonnellate, quindi c'è ancora un sacco di strada da fare, probabilmente c'è ancora tanto da frugare nelle cantine e nei cassetti per perché trovare. Voi siete convinti che ce n'è in giro, ce n'è da trovare? Ce n'è indubbiamente, perché se guardiamo i dati di immesso sul mercato, cioè quanto noi italiani compriamo e spesso compriamo per sostituire altre apparecchiature che non funzionano più, indubbiamente da qualche parte ci sono rifiuti che non sono ancora emersi. Poi è vero che siamo dei distrattoni e quindi spesso le piccole apparecchiature vengono buttate nel sacco nero. Il rasoio elettrico, lo spazzolino, il cellulare purtroppo vanno a finire nel sacco nero e li perdiamo la possibilità di recuperare materie prime. Senta Rienti, che danno facciamo nel momento, attenzione alla linea che fa un po' di... che danno facciamo all'ambiente nel buttare queste cose nel sacco nero? Allora facciamo due danni, uno è che le sostanze inquinanti che sono contenute rischiano di inquinare l'ambiente. Faccio un esempio: se buttiamo una lampadina a risparmio energetico che contiene mercurio e il mercurio va a finire in una discarica insieme alla spazzatura indifferenziata, potrebbe diventare un inquinante di fatto. Ma l'altro danno che facciamo è che perdiamo la possibilità di recuperare materie prime, e le materie prime in natura, soprattutto in un paese come l'Italia, ormai sono scarse. Dobbiamo abituarci a riutilizzare quello che già abbiamo, quindi le materie prime seconde, quelle che vengono dagli oggetti che abbiamo nelle nostre case. In particolare i rifiuti elettrici e elettronici contengono numerose materie prime, da quelle più banali, il ferro, l'alluminio, il rame, la plastica, a quelle più sofisticate come le terre rare che vengono utilizzate nell'elettronica. Oggi non possiamo più permetterci, da un punto di vista economico, non solo ambientale, non possiamo più permetterci di sprecare materie prime, perché il pianeta che abbiamo, che purtroppo è uno solo, non ne ha abbastanza per sostenere il nostro sviluppo. Tra l'altro, così ci rendiamo anche un pochino indipendenti, diciamo, da materiali che arrivano da molto lontano, che sono gestiti magari in maniera non sempre etica, ecco, mettiamola così, genericamente. Sì, ha perfettamente ragione. Ci aggiungo una cosa, perdiamo del lavoro. Se buttiamo via tutte queste cose, non offriamo lavoro a chi poi invece può recuperarle in Italia. Ha ragione, infatti il tema è allo stesso tempo ambientale ed economico, e ne approfitto per dirlo in una radio come Radio 24 che sul tema economico è particolarmente apprezzata. Il tema è davvero non perdere opportunità di occupazione, di riutilizzo di materie prime in un contesto come quello italiano, dove abbiamo bisogno di lavoro, abbiamo poche materie prime vergini, abbiamo quindi davvero bisogno di fondare la nostra nuova economia sul riciclo, è quella che si chiama economia circolare, ma per arrivarci bisogna fare tutti uno sforzo, a partire da noi cittadini, dalla raccolta differenziata corretta di questa tipologia di rifiuti e poi lungo tutta la filiera con impianti sempre più sofisticati per estrarre tutte le materie prime. Ma tutti quei soldi di cui sentiamo parlare per la transizione verso l'economia circolare anche del nostro paese possono arrivare anche a questa filiera? Ma noi ce lo auguriamo, abbiamo anche presentato qualche idea agli interlocutori istituzionali, perché c'è bisogno di potenziare l'impiantistica per il riciclo dei RAE. Speriamo perché che se no restiamo al livello del rottamatore, diciamo, per una certa fetta. Ecco, poco di più. Purtroppo i materiali di maggior valore, che sono anche quelli più difficili da estrarre, per esempio dalle schede elettroniche, oggi non vengono recuperati in Italia. Tutte le schede vengono mandate in Belgio, in Germania o nel Far East, e quindi ricicliamo, ma poi perdiamo la possibilità di utilizzare le materie prime contenute in questi dispositivi. Quindi c'è assolutamente bisogno che all'interno del recovery plan, in questa massa di denaro che ci auguriamo l'Italia sappia sfruttare, ci siano anche degli investimenti dedicati alla filiera dei rifiuti elettrici e elettronici. E in generale alla filiera dei rifiuti forse in Italia, perché ce n'è un po' bisogno, cioè ci sono molte azioni buone da parte dei cittadini, ora è ora di rinnovare forse anche l'impiantistica e qualche cosa addirittura fare, direi. Indubbiamente sì. Senta, c'è anche un altro aspetto interessante ed è che le materie prime seconde, quindi quelle che provengono dal riciclo dei RAE, sono interessanti, sono vincenti dal punto di vista ambientale, sono vincenti dal punto di vista energetico, ma spesso sono più costose delle materie prime vergini dal punto di vista economico. Soprattutto perché a volte sulle materie prime vergini c'è dumping, perché i produttori, gli estrattori, i petrolieri mettono sul mercato. Certo. Quindi c'è bisogno anche di un sostegno di natura fiscale. C'è bisogno di incentivare l'utilizzo di materie prime seconde riciclate da parte dell'industria, altrimenti la transizione verso l'economia circolare da sola non accade, purtroppo, perché prevalgono interessi economici di breve periodo rispetto al disegno strategico fondamentale di cambiare modello di sviluppo, perché altrimenti non andiamo avanti. Giorgia Rienti, ci fa un augurio di buon anno o si fa un augurio di buon anno prima di chiudere? Sì, io spero che sia davvero un anno migliore di quello che abbiamo passato e anche dal nostro punto di vista un anno in cui l'Italia riesce a cambiare marcia, cioè la crescita di cui parlavo prima, 10% della raccolta dei rifiuti elettrici e elettronici, mi auguro che l'anno prossimo diventi un più 20, un più 30, un più 40, perché abbiamo un potenziale che dobbiamo sfruttare. Grazie, davvero grazie. Sì. Giorgia Rienti, il direttore generale di Aerion. A chi ci chiede dove si buttano i RAE, basta consegnarli separatamente o nel momento in cui fate un acquisto di una cosa nuova date indietro quella vecchia, perché è vostro diritto, o altrimenti li consegnate al vostro comune separatamente all'isola ecologica, o li fate venire a prendere se sono grossi. Ci ritroviamo dopo GR 24, sempre parliamo di Si può fare Natale. Si può fare. Può fare. Ed eccoci di nuovo insieme, proseguiamo nella nostra puntata di Si può fare Natale 349-238-6666 per i vostri messaggi. Ha digitato invece l'800-24-00-24 Fausto, che ha chiamato da Trento. Buongiorno Fausto. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Si sente dal tono che sei un animatore che per Natale ha deciso di fare che cosa? Assieme a un altro ragazzo abbiamo deciso di tenere compagnia a tutti gli ospiti che di solito vengono a trovarci durante l'estate, tenere compagnia attraverso una web radio. È una cosa un po' particolare in realtà, perché siamo su un canale Facebook e quindi è un misto tra televisione e radio. Quindi avete recuperato gli ospiti del luogo, insomma, cos'è, un albergo? No, in realtà è una località turistica. Una località turistica che conoscete, insomma, e li avete aggregati per tenere insieme il legame, insomma, per proseguire. Sì, e per noi animatori l'aggregazione è tutto, e in questo momento non è certo il massimo, e allora abbiamo detto dai che ci inventiamo qualche cosa. Questa mattina quando ho sentito quante idee riuscite a mettere insieme ho detto beh dai, proviamo a dare anche noi il nostro contributo. Magari un po' tardi, però qualcuno ci può riuscire, dai, fa la web radio di condominio magari. Sì, ma ce ne sono tante in questo periodo, funzionano e soprattutto quelli che ci ascoltano sono contenti perché, insomma, non perdono i contatti. Certo. Fausto, grazie davvero. Bocca al lupo, buon anno. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. E a questo punto continuiamo a parlare un po' di Natale e quindi anche magari di dress code di Natale in una certa misura, ma continuiamo a parlare anche di transizione verso il nuovo anno, verso un futuro anche più sostenibile, con maggiore attenzione alle persone e all'ambiente, il pianeta in generale che ci circonda. Ci ha raggiunto Santo Versace, imprenditore nel mondo del tessile, ma direi un cognome che parla da sé. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno, lei ha partecipato a vari dibattiti, uno anche ieri tra l'altro, sul tema proprio del tessile, di come il tessile da una parte e la moda in generale siano il nostro biglietto da visita e che questo biglietto da visita, diciamo, possa avere delle sfumature di verde, perché lì veramente potremmo dare anche un nuovo contributo a un settore che già è famosissimo nel mondo. Un po' su che linee si sta ragionando? Ma ci sono delle date significative in cui ho preso la presidenza della Fondazione di Alta Gamma nel 92, la presidenza della Camera della Moda nel 98, Camera Nazionale Moda Italiana, due strutture diverse, dove comunque dichiarammo insieme agli altri, con molto anticipo di tutti, parliamo dell'Alta Gamma, fu fondata nel maggio 92, la Camera della Moda io me ne occupai nel 98. Parlammo proprio di questo, della difesa della dignità del lavoro, della difesa del lavoro minorile, del rispetto della legalità e dell'obiettivo di difendere la natura, il mondo. Quindi sono argomenti che partono da lontano. Sono diventati di recente molto più impellenti, perché con lo sviluppo della Cina in particolare e del Far East, l'economia è cambiata, perché quando cominciamo con la moda la Cina era ancora un paese chiuso, c'era ancora il muro di Berlino, quindi tante economie erano indietro. E non erano sviluppati. Lo sviluppo di tutta l'economia mondiale, la crescita dell'economia mondiale ha portato chiaramente a maggiori problemi sulla sostenibilità. E sono argomenti che la moda e tutti i settori dello stile di vita italiano e altri hanno sempre guardato. Hanno guardato insieme veramente al rispetto del lavoro, alla dignità e alle risorse umane. Sono risorse umane e risorse del territorio sono state sempre coniugate. Adesso proprio io ne parlo sempre, adesso con l'occasione del Reco di Prato, grazie, Valerio mi ha chiesto, Barbese mi ha chiesto se potevo intervenire, gli ho detto volentieri, anche perché il Reco di Prato si occupa la dimostrazione di come il tessile di Prato, il cartario di Lucca, il conciario di Santa Croce di Sull'Arno hanno capito. Se mi ricordo, possono trasformarsi, certo, sì, ricordiamo cosa sono io stati. Io mi ricordo 40 anni fa come l'Arno era inquinato da Santa Croce di Sull'Arno in una maniera 45, cioè, diciamo. Negli anni 70 era un problema serio, ora invece hanno fatto due depuratori che non solo ripuliscono tutta l'acqua, rimettono in ciclo, ma addirittura poi si sono messi al servizio anche della comunità. Santa Croce sul Lerno è importante perché sotto questo aspetto è la dimostrazione di come un distretto che era super inquinante diventa super ecologico. Certo, ma di distretti inquinanti voi nel vostro livello, diciamo, proprio di lavoro che è mondiale, ne vedete tanti, e direi l'esperienza che hanno fatto a Prato, che hanno fatto a Lucca, diceva lei per il Cartario, ricordava, sì, e via via, va necessariamente clonata e portata in giro. Ma io mi ricordo quando ci fu la grande sfida di Albertini, sindaco di Milano, che sfidò i Verdi dicendo che lui avrebbe finalmente aperto il depuratore, mi pare fosse Nocedo, il più grande di Milano, sì, che non si apriva da anni, e disse addirittura che lui avrebbe dimostrato che questa strada avrebbe bevuto l'acqua del depuratore, cosa che fece senza intossicarsi. Beh, lì continuano delle sperimentazioni importantissime in quel depuratore lì. Dico, tutti dobbiamo metterci in testa, tutti quanti, che io ieri proprio durante la trasmissione mi disse uno dei relatori, disse: noi siamo apolitici, no, potete dire apartitici, ma non apolitici, perché fare vivere e fare politica, vuoi respirare sano, vuoi mangiare biologico, tutto quello che tu fai è politica, puoi stare fuori dai partiti, puoi non fare politica attiva, ma la vita è politica. Io sono perfettamente d'accordo, perché noi in Italia continuiamo a confondere politica e partitica. Esatto, sì, no, ma l'arrabbiatura verso i partiti è tale e tanta. Cioè, io ieri gli ho detto anche in trasmissione: signori, andate a sentire la canzone Dolce Enrico che Antonello Venditti dedicò a Berlinguer. In quella trasmissione, Berlinguer è morto, mi pare, a 35-36 anni, ora non ricordo esattamente, mi pare 85-83. In quella trasmissione, durante la canzone, c'è un pezzo di conferenza politica, di tribune politiche come si facevano allora, in cui Enrico Berlinguer parla di come i partiti hanno occupato lo Stato e della contaminazione che hanno creato, del malessere. I partiti sono diventati Stato. E quando i partiti si occupano dello Stato per il benessere personale dei singoli e dei partiti, dei clan, il guaio nasce da lì. Certo. Cioè, non si fa la politica, cioè, in questo momento perché siamo arrabbiati con i partiti in generale, e questo dimostra anche come l'italiano gli dà uno strumento. Votando il 5 Stelle, gli elettori italiani hanno cercato un cambiamento, una reazione contro il malessere che c'è verso i partiti storici, i quali dimostrano che fanno politica semplicemente per arricchimento personale dei singoli partecipanti, un po' come le caste della nomenclatura sovietica o le caste delle dittature. Perché in tutte le dittature c'è un popolo che soffre, e una piccola parte, la casta che guida, la casta al potere. La fattoria degli animali. Questo senz'altro. Infatti è giusto, come dire, sottolineare che ciascuno di noi deve occuparsi di politica, occuparsi, ma deve occuparsene dell'amministrazione, della politica, come se ne occupa Travaglio, come se ne occupa i giornalisti che fanno inchieste, nel senso vero di far capire a chi è dentro le istituzioni che noi non permettiamo, non vogliamo, non desideriamo, dobbiamo fare sentire il disprezzo sociale e culturale a coloro i quali approfittano del bene pubblico. Questo è un concetto molto importante. Molto, molto importante, è vero. Per è vero. Fare politica ci vogliono tre principi fondamentali, poi ce ne possono essere altri. Primo, profonda competenza, quindi non può essere un diciottenne, dice, vabbè, almeno è un genio più di Einstein, e ne parliamo. Poi ci vuole una sola religione, la religione del bene comune, e poi una profonda onestà. Queste sono tre componenti basilari, altrimenti fai un altro mestiere. Questi erano i principi. Oggi non lo sono tanto, perché questo è fondamentale, perché se ci sono questi principi, tu non deturpi il territorio, non fai costruire sul bagnasciuga, demolisci se non ha costruito sul demanio pubblico. Magari demolisci non 30 anni dopo. Allora. No, se demolisci in 30 giorni. Capisci? Poi c'è anche il problema nostro della giustizia, perché la giustizia che è lentissima, perché se la giustizia fosse veloce e tutto il resto, anche i danni ecologici o d'altro, puniti severamente, immediatamente. C'è tutto un discorso molto importante. Cioè, il bene pubblico deve essere fatto fondamentale. Tutti dobbiamo occuparci del bene pubblico, tutti dobbiamo occuparci dello Stato. E farli trattare bene, pretendere che ognuno faccia, se ognuno fa il suo ruolo, inquinamento lo battiamo in poco tempo. Cresce. Allora, Santo Versace, lei ha ragionissima, è chiaro, la vede anche da imprenditore con irruenza, mi piace moltissimo, però io devo dare lo spazio e la viabilità. Se lei può, resti con noi, e dura un minuto e mezzo, e proseguiamo. Io vorrei che ci fosse anche la mobilità un fatto importante, che noi del profondo sud, anche se vivo fra Milano e Roma, abbiamo bisogno di una grande mobilità per far vedere i tesori e le bellezze delle nostre terre e per cambiare il destino del sud. Non solo strade, ma con treni magari anche, che sono un pochino meno impattanti. Sentiamo. Si può fare. Fare. E siamo sempre collegati con Santo Versace e ci ha raggiunto anche Francesco Marini, che è consigliere delegato di Marini Industrie, quindi parliamo di produzione di tessili, è vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, poi anche presidente del Museo del Tessuto di Prato. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. A questo Festival Recò 2020 con Santo Versace vi siete fatti dei bei dibattiti, credo, perché abbiamo sentito poco fa l'ardore con il quale difende il, non solo il lavoro, ma anche il territorio nel quale si lavora. Sì, sì, assolutamente. Poi trova tra gli imprenditori toscani sicuramente pane per i suoi denti, perché chiaramente chi ha passione per il lavoro che fa. E a Prato lo facciamo da oltre 1000 anni, perché parliamo di un distretto che è il più importante d'Europa da un punto di numeri per il distretto tessile, ma soprattutto è il fornitore della moda d'eccellenza. Non a caso l'azienda Versace compra tantissimo a Prato e lo fa perché trova innovazione, trova ricerca, ma trova anche sostenibilità, che è un po' l'argomento di oggi, che lei sta trattando benissimo e che parla di economia circolare. L'economia circolare, esatto, bisogna assolutamente come dire, sforzarsi di chiudere il cerchio, ecco, di riutilizzare. Tra l'altro voi siete dei maestri in questo, ho letto addirittura del cashmere rigenerato, quindi... Sì, sì, no, vabbè. No, a Prato facciamo da oltre 200 anni le lane riciclate, facciamo da oltre 200 anni perché era un modo a suo tempo per cercare di trovare dei prodotti che costassero meno. Oggi questa tradizione, questo heritage che ci portiamo dietro è diventato virtuoso, perché chiaramente andiamo a non consumare più materia nuova, non andiamo a generare scarti e quindi inquinamento, e invece riusciamo a riottenere dei nuovi filati, dei nuovi tessuti dai vecchi capi usati, che sono altrettanto belli, e con questa maestria adesso facciamo cashmere, facciamo fibre di lusso, e insomma questo know-how ormai ci è rimasto addosso e adesso lo stiamo cercando di portare sempre più avanti in maniera forte, anche come messaggio di sostenibilità. Vorrei chiedere a Santo Versace, abbiamo parlato tanto di appunto di moda, di lusso, ma dobbiamo pensare anche a quel tanto che viene prodotto per la massa, diciamo così. No? Sì, è un bel sì, tema anche quello. No, assolutamente. E a parte quando mi hanno ogni volta una battuta che mi ricordò Gianluigi Paracchini, giornalista del Corriere della Sera, che una volta mi vide in televisione e disse: Santo, sei stato un genio. Cioè, perché cosa ho detto? Perché non mi ricordavo neanche cosa avevo detto. Cioè, ti ha chiesto la Rosanna Cancellieri, il solito discorso del gelato a fine sfilata, come deve essere vestita una donna per piacerle. E io gli ho risposto: una donna generalmente guardo gli occhi, lo sguardo, poi il sorriso, poi ci parlo e non mi ricordo mai com'era vestita, non me lo ricordavo. Hai ragione Gianluigi, sei stato geniale. Per quanto riguarda questo aspetto qui, ognuno deve essere in armonia con se stesso. E ognuno si può fare il suo stile a qualunque target di prezzo, ovviamente avere un minimo di reddito. Perché dalla piramide dell'alta moda di Roma e Parigi, ci fu un momento in cui l'alta moda di Roma era veramente forte, l'anno in cui la fece nel 99 Francesco Rutelli e Paolo Gentiloni, che poi diventò primo ministro, ci diedero tutte le piazze di Roma più belle e per 5 sere i nomi più forti, da Balestra a Sarli, a Gattinoni, sfilarono ognuno in una piazza. Balestra sfilò Piazza Farnese, presentì l'ambasciatore di Francia. Quindi ognuno si può fare la moda a qualunque prezzo, perché partendo dalla piramide dell'alta moda si arriva alla la moda veloce, si arriva a Zara, si arriva a H&M, mentre Zara generalmente costruiva le sue collezioni guardando le sfilate degli altri e poi riproducendo velocemente. Cioè, noi sfilavamo e dopo 3 settimane c'erano i capi. H&M addirittura sfida la moda, perché ha i suoi team creativi e tutto il resto, e quindi cerca, ci sono le possibilità di vestirti a qualunque, cioè, se hai le idee. Però dobbiamo fargli una richiesta specifica sulla produzione a quel punto. Sì, In che senso? No, sull'attenzione alla sostenibilità, l'attenzione al territorio. No, questo è diventato un argomento fondamentale, perché oggi te lo impone anche il mercato, cioè i clienti. Io non li chiamo più consumatori da molti anni, da metà anni 80. In un'intervista all'Unità spiegava Gianluca Lovedro, che allora scriveva per l'Unità, che sulla moda, che per me erano cambiati. Mentre prima i consumatori entravano da Versace e compravano solo quello che gli offriva Versace o Armani o un altro, il cliente andava da Versace, cercava quello che voleva e sperava che Versace avesse fatto le cose giuste, di Versace adeguate al tempo, come se non trovava, cambiava. Quindi il cliente è diventato più... Oggi il cliente vuole il rispetto dell'ambiente, della natura, vuole il rispetto del lavoro, una cosa che io ho fatto fare da molti anni, come dicevo prima, sia in alta gamma, sia in camera della moda. C'è la dignità del lavoratore contro il lavoro contro il lavoro minorile, certo. Contro la sottoccupazione, o contro addirittura quando danno le subcommesse al lavoro nero d'altro. C'è un impegno che la moda, in particolare, e il lifestyle, tutto lo stile di vita italiano tramite alta gamma, hanno preso in pieno da oltre 30 anni. C'è il rispetto poi del lavoro dei minori. Quindi, poi può capitare che abbanelli in una volta l'inchiesta, però non si può fare tutte le bonfasce. Certo. Può capitare che tu dai. No, ma è giusto fare l'inchiesta per beccare, diciamo, o bloccare quello che non va. Quando citano i grandi nomi, non è qualcuno che ha barato sotto ai contratti che si fanno, sono proprio fatti a regolate, cioè non essere pagati bene i lavoratori, non essere rispettati loro, deve essere rispettata la sostenibilità, perché il mercato oggi pretende una grande fetta di clienti, di persone che acquistano, sta attento a questo. Lo chiede, come certo. L'agroalimentare biologico, tutto. Quindi e vuole anche mondo... certificato di sostenibilità. Esatto, assolutamente. Io la devo salutare adesso, ma la ringrazio davvero tanto e spero che avrà di nuovo voglia, insomma, di tornare a salutarci in futuro. Parlare del nostro paese e di come cambiarlo, mi trovate sempre. Grazie. Grazie davvero. Prego. Santo Versace, buon proseguimento, buone vacanze, buone feste, buon tutto. E abbiamo ancora in collegamento invece Francesco Marini, e a proposito di quello che dicevamo poco fa, le persone lo chiedono e bisogna un po' certificare anche l'origine di un tessuto. Come facciamo anche su questo aspetto, avere come consumatori, come cittadini, come vostri clienti delle garanzie? Allora, le garanzie arrivano prima di tutto quando si riescono a misurare certi parametri, quindi le certificazioni che ultimamente sono entrate nel mondo del tessile sicuramente hanno messo degli standard, quegli standard vanno rispettati, vanno per poter anche godere di una reputazione diversa, per poter anche certificare il valore aggiunto del prodotto, dobbiamo rispettare appunto queste certificazioni. Chiaramente è importante e sarebbe importante anche la possibilità di avere una carta d'identità sui capi. Qui purtroppo abbiamo fatto delle grandi battaglie a livello europeo, ma l'Italia si è contrapposta a tanti paesi importatori del nord Europa che purtroppo hanno sempre la meglio quando riescono a non identificare un prodotto, perché quando si racconta tutto è fatto, qui lo storytelling per esempio delle nostre produzioni è un elemento di comunicazione che dà valore al prodotto. Ecco, quello sicuramente è un valore aggiunto, perché il cliente ormai ha bisogno di sapere cosa compra ed è anche molto più consapevole rispetto al passato. Le nuove generazioni che si diceva sono molto molto attente a questo, al settore della sostenibilità, soprattutto nell'ambito del lusso, quindi assolutamente bisogna avere un metodo di misurazione. E certo, che deve essere comune, riconosciuto e anche riconoscibile, ecco, non, per noi che non siamo magari addetti. Ho visto invece nello specifico di Marini Industrie, ho letto che avete fatto degli interventi importanti anche sullo stabilimento proprio, perché parte da lì la sostenibilità. Uno dice produco questo meraviglioso capo, però devo produrlo anche nelle condizioni più intellettualmente affini a quello che produco. Assolutamente, questo è un distretto sostenibile, la cultura è ormai diffusa ormai in tutte le aziende di questo distretto, che è un distretto fatto di piccole aziende, sono aziende familiari. La mia è un'azienda che esiste da 75 anni, fatta da mio nonno, io sono la terza generazione. Abbiamo deciso di investire anche sul luogo, sul contenitore, perché il contenitore deve essere uguale al contenuto. Se facciamo prodotti sostenibili dobbiamo assolutamente comunicarli anche con il posto posto dove lavoriamo. Quindi per voi è nato prima l'idea del tessuto, diciamo, di cambiare la produzione e poi anche lo stabilimento? Sì, lo stabilimento che ha è autosufficiente dal punto di vista energetico con pannelli solari, prevede la mobilità sostenibile, quindi colonnine elettriche per ricaricare le macchine, ma anche materiali naturali, quindi legno, cemento, c'è una fontana all'interno che dà anche una sensazione di benessere a chi ci lavora dentro. Cerchiamo anche di capire che nel lavorare nel bello aiuta a produrre il bello, e noi abbiamo una tradizione che è troppo importante da disperdere, e che soprattutto anche i paesi che ormai hanno raggiunto delle produzioni da un punto di vista di costi molto più competitive di noi, però non hanno, e che quindi difficilmente proveranno ad avere se non copiandole, ecco. Sì, però se copiano una cosa bella. Sì, no, adesso devo dire come idea, come secondi, spirito, però. Come che no, chiaro, non copiare nel senso proprio di farvi la copia e venderla a basso prezzo, ma se comincia a diventare la norma fare certe cose, forse ne beneficiamo tutti, poi che speriamo che usino la loro di fantasia nella produzione e non la vostra. Sì, sì, assolutamente. Però diceva prima su per esempio su anche come le infrastrutture sono importanti. Nel nostro territorio abbiamo un depuratore centralizzato che rimette il 40% delle acque industriali. Sì, mi ricordo di averne parlato quando è stato fatto questo impianto. Quindi cioè, per capire che anche il luogo è fondamentale, perché quando nella Silicon Valley si sviluppavano le aziende di software, ecco, era il luogo che permetteva tutto questo. Quando il territorio si permea di cultura sulla sostenibilità, automaticamente anche le aziende sono più invogliate a investire. Certo, se ci fossero degli incentivi fiscali sia nella produzione che nell'acquisto dei materiali, ecco, allora sì che questa transizione sarebbe guidata in maniera più forte e sicuramente con risultati migliori. Ma potrebbe, allora non ci sono adesso, questo è evidente dalle sue parole, potrebbero esserci, mettiamo nei piani che stiamo preparando adesso? È fondamentale adesso il Next Generation EU, perché su questo appunto i tre temi sono il digitale, la sostenibilità e le ricadute sul territorio da un punto di vista sociale. Quindi il lavoro che sta facendo per esempio Confindustria è di indicare quali sono i campi d'azione, perché su quelli anche gli investimenti poi delle singole aziende saranno incentivati. Quindi bisogna adesso non disperdere energie e risorse, e bisogna che la politica in questo momento ascolti molto le industrie, perché sono gli attori principali e sono quelli che generano lavoro e che daranno benessere nel futuro dopo un momento così difficile, fra l'altro. Certamente. Francesco Marini, la ringraziamo davvero tanto per questo collegamento. Cosa si augura per l'anno prossimo? Ascolto, quindi? Sì, sicuramente ascolto. Sono convinto che il nostro patrimonio culturale ci permetterà di superare questo momento. Certo, sarà dura, ma ce la faremo. Grazie, in bocca al lupo anche a voi, e grazie per il lavoro che avete svolto con il festival. Abbiamo una piccola pausa e ci troviamo subito dopo. Si può fare. Si può fare. E siamo di nuovo insieme e continuiamo a parlare del Si può fare Natale. Buon Natale a tutti voi, mi rimproverano per non averlo detto ancora fino adesso. Allora, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo, buon 2021, eccetera eccetera eccetera eccetera. Sicuramente a Natale non può mancare l'albero, abbiamo detto prima, qualche lucina l'abbiamo buttata via, qualche altra ne abbiamo comprata. Alberi ce ne vogliono sempre di più, e quindi diamo il benvenuto a chi alberi sta piantando. Marco Nespoli, CEO o amministratore delegato, se preferite, di Gruppo Fedrigoni SPA. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, Fedrigoni è tra i principali gruppi al mondo nella produzione di carte speciali per packaging, però state anche piantumando in un'azione molto precisa 1530, mi pare, piante tra il confine di Caponago e Pessano con Bornago. Sono due località milanesi, diciamo, intorno a Milano. Sì, sono due località tra in provincia di Monza e Brianza, dove abbiamo in quella zona abbiamo tre dei nostri oltre 20 stabilimenti in tre continenti, e questa iniziativa rientra all'interno di un piano di accelerazione del nostro impegno in termini di sostenibilità e ambiente, che parte appunto dall'essere vicini ad alcune delle comunità che ci ospitano, in questo caso specifico per il miglioramento delle loro aree urbane, che vengono rese, diciamo, più, che vengono abbellite, rese più fruibili. E anche un po' più, diciamo, no, un polmone verde diventa. Decisamente sì, questo è, diciamo, dove i 15.000 metri quadrati dove piantiamo circa 1.600 alberi sono, diciamo, in un'area adiacente a zone industriali e che è interessata dall'intersezione tra diverse arterie diciamo semi autostradali, e questi alberi, appunto, oltre ad abbellire una zona ciclabile adiacente a questa zona industriale, vada anche ad assorbire l'equivalente di quello che immettono in atmosfera circa 50 auto all'anno, quindi ogni anno si vanno ad assorbire oltre 150 tonnellate di CO2. Questa scelta, tra l'altro, che è stata fatta in accordo anche, oltre che per la cittadinanza, ma in accordo con la Regione Lombardia, ho visto, quindi è tutto un piano che serve ad aiutare queste aree che hanno vissuto ovviamente uno sviluppo incredibile, durante il quale non si è pensato minimamente a salvare la natura in questa parte. Parte sì, della facciamo città metropolitana e provincia di Monza e Brianza, insomma lì si è cresciuti tanto e si è pensato poco al verde. Sì, lo facciamo sicuramente in cooperazione con la regione e con i comuni che ci ospitano. Abbiamo iniziato da lì, appunto, perché lì abbiamo circa 300 persone in due o tre stabilimenti diversi. Proseguiremo con Verona, che è un'altra città che vede un nostro stabilimento molto importante e anche una nostra sede piuttosto importante, e da lì continueremo, ripeto, all'interno di un programma molto, esatto, più ampio di nostro impegno per l'ambiente. Infatti volevo capire proprio che è stato questo programma, perché ne abbiamo parlato prima anche nel tessile, il programma aziendale ha portato a fare delle altre cose, poi in questo caso vostro verso l'esterno. Qual era il programma aziendale che vi ha, no, dato il via, il volano è stato? Il programma aziendale è qualcosa che, diciamo, all'interno della nostra strategia di grande trasformazione che del gruppo, sia organicamente che non, che è partita ormai quasi 2 anni fa, negli ultimi 6 mesi abbondanti abbiamo molto intensificato l'approfondimento della nostra strategia di miglioramento, diciamo, del nostro contributo alla tutela dell'ambiente in senso molto ampio, che vada dal miglioramento del nostro processo produttivo che vede 20 stabilimenti in 3 continenti diversi, in termini di emissioni, in termini di utilizzo delle acque, in termini di smaltimento dei rifiuti dei nostri processi industriali, ma è anche volto a migliorare i contenuti del nostro prodotto in termini di impatto ambientale iniziale, ma anche di possibilità di riciclabilità e compostabilità a valle. Agisce anche sui trasporti, agisce chiaramente anche sulle nostre politiche interne, diciamo, di modalità di lavoro, di qualità dell'ambiente di lavoro, e anche nelle comunità che ci ospitano, quindi di impatto sociale per le tante comunità che ospitano i nostri stabilimenti e uffici in giro per il mondo. Quindi è parte di un lungo percorso, un percorso che forse si autoalimenta, cioè via via che lo fai, che metti in pratica un'azione, allora poi ti viene in mente un'altra, e allora poi ci aggiungi un'altra ancora. È un po' così, perché mi sembra, di solito funziona così, no? È contagioso, un'azione tira l'altra. È esattamente così, diciamo, come in tanti processi di miglioramento, diciamo, darsi l'obiettivo ambizioso in termini di miglioramento, misurare l'avanzamento rispetto a questo obiettivo comporta grande focus continuo, e da grande focus continuo e partecipazione di tutti attorno a questo a questo obiettivo, che in questo caso è anche particolarmente aggregante e motivante per tutte le nostre tante persone in giro per il mondo, si continuano a scoprire diciamo ulteriori azioni da fare, ulteriori idee di miglioramento. Questo vale per esempio nel processo produttivo, dove l'utilizzo di sempre meno energia, piuttosto che l'ottimizzazione dei nostri circuiti di trasporto, sia in ingresso delle materie prime che in uscita dei prodotti, ma così come sulle caratteristiche di prodotto, è effettivamente è un circolo virtuoso che una volta innescato si autoalimenta. Si autoalimenta. Tra l'altro vi viene anche richiesto, credo, voi siete un gruppo sovranazionale, quindi ce lo può dire, insomma, ormai c'è richiesta dall'esterno e questo non fa che aumentare questo tipo di azioni all'interno dell'azienda, credo. Sì, decisamente sì, è richiesto, oltre che a grandi gruppi, quotati e non, è richiesto di pubblicare il cosiddetto bilancio di sostenibilità, che va quindi a dichiarare al mondo, a tutti gli stakeholders, l'impatto ambientale delle attività del gruppo. È anche sempre più richiesto, per fortuna, da tutti gli investitori internazionali che valutano tra le caratteristiche, diciamo, di successo e di profittabilità dei anche sul lungo periodo, no? Io guardo avanti e dico: gruppo Fedrigoni, che ha fatto queste cose, ha una vita più lunga di altri che non le stanno facendo, quindi investo su di loro. Può essere, no? Beh, anche questo uno dei temi. Decisamente sì, negli ultimi anni si vede, diciamo, per chi appunto interagisce con investitori internazionali di tanti tipi diversi, sia sul mondo del credito che sul mondo azionario, è assolutamente visibile e percettibile come l'attenzione da parte dell'investitore sulla performance in termini di ambientale sostenibilità da parte dell'azienda è decisamente una delle aree di maggiore focus nello scegliere quali sono le aziende meritevoli di investimenti di lungo periodo e quali meno. Esatto, molto, molto interessante e molto importante quello che ci ha raccontato, perché comunque credo che la leva finanziaria sia stata quella più efficace ultimamente, e adesso si va a cercare questo nelle aziende, cioè quanto si può sviluppare questa azienda rispettando certi parametri, richieste verso il futuro, quanto può resistere, quindi è decisamente una questione non di poco conto. Marco Nespolo mi scuserà se rispondo un attimo a un ascoltatore che mi dice che non è vero che si è pensato poco nell'area al verde e nell'area di Monza Brianza. Vorrei far presente a questo ascoltatore, di cui non ripeto perfettamente le parole, che l'unico corridoio verde che è rimasto tra le Alpi e il centro sud Italia è quello del Parco del Ticino, proprio perché tutta la pianura dall'ovest all'est è stata percorsa da strade, autostrade, campi, non c'è più niente di naturale se non il Parco del Ticino, che infatti va preservato come il nostro cuore, perché altrimenti, per dire, neanche un animaletto può passare da nord a sud. Mi perdoni, Marco Nespolo, obiettivi futuri, propositi per l'anno prossimo, per farci gli auguri di Natale e di un buon anno. Beh, di sicuro all'inizio del prossimo anno noi comunicheremo, per rimanere sul nostro tema, comunicheremo un ambizioso gruppo di obiettivi, poi chiaramente monitorabili proprio in termini di impatto ambientale e sostenibilità in modo più generale del nostro gruppo, e questo sicuramente sarà una delle prime cose che ci terrà impegnati quest'anno. Allargando un po' il campo, chiaramente l'obiettivo penso di tutti è quello di uscire il meglio possibile, il prima possibile da questo grande problema che è la pandemia globale, e riuscire a ritornare noi, tutti i nostri dipendenti, le loro famiglie a quanto prima una normalità sia di vita che di business, che ovviamente sono entrambe ugualmente importanti. E certo. Marco Nespolo, allora auguri anche a lei e a tutti i vostri dipendenti. Noi abbiamo la viabilità e ci ritroviamo subito dopo. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Per fare una canzone di Natale. Non basta un argomento natalizio, ma occorre un ingrediente più speciale, lo zenzero. Ma chi l'avrebbe detto che lo zenzero in fondo è il vero fulcro del Natale? Non il presepe, non Gesù bambino, ma lo zenzero. Oh, zenzero non zenzero, non lo so. Io sono molto felice di accogliere la nostra prossima ospite, alla quale non so se piace lo zenzero, a me pochino. Però lei è impegnata in una causa davvero importante, una causa di quelle che sono importanti tutto l'anno, ma che poi a Natale, insomma, ci ricordiamo di sostenere ed è importante. Natascia Stefanienko, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Zenzero sì, sì o no? Ah, zenzero sì, zenzero sì, adesso specialmente in questo periodo che dicono anche, insomma, anche che bene. Aiuta in qualche modo a proteggerci, insomma, da questo virus. Per me è un po' medicina, limone e zenzero, sì, però non ecco. Ti piace? Ma si può fare, ti piace? Si sì. Può fare. Vabbè, zenzero proprio mangiare come così, insomma, masticandolo forse no, però io metto... Oh, lo metto ovunque, lo metto anche con le verdure che insomma salto in padella con lo zenzero, perché mi dà quel non so, un gusto diverso, forse più orientale, diciamo. Ecco. Sì, questo senza dubbio, questo senza dubbio. Infatti, noi l'abbiamo scoperto più o meno dai tempi di questa canzone di Elio e le Storie Tese, lo zenzero, da quel momento in poi è entrato nelle cucine italiane, perché prima stava un po' più a est, insomma, non era proprio la è cosa vero. Più frequente. Allora, è io vero. Ti ho fatto un po' chiacchierare, perché so che si può vincere di una chiacchierata con te grazie sì. a questa pure, iniziativa. Sì, certo. Questa è iniziativa. L'asta dei sogni. Sì, l'asta sì, sì, dei sì. sogni. Parliamo ovviamente dell'associazione che si chiama Sole Terre, con la quale io collaboro dal 2006, quindi insomma è un... consolidato insomma, rapporto lungo, di fiducia. Esatto, lungo periodo. E noi tutti gli anni facciamo questa l'asta dei sogni che... a parte aiuta anche a alleggerire un po' questa situazione, parliamo sempre dei bambini malati di cancro che insomma che aiutiamo in Italia ma anche nei diversi paesi del mondo. E questa l'asta, perché si chiama l'asta dei sogni? Perché veramente non compri o non acquisti un oggetto, la borsa o qualsiasi oggetto fisico, ma acquisti un sogno, cioè un'esperienza. Per esempio una chiacchierata come dicevi tu con me, o che ne so, ce una ne chiacchierata sono le più diverse, una cena con Massimo, un'escursione Bottura. Con sì, o che ne so, una lezione con Enzo Micio, o che ne so, una chiacchierata con la Cristiana Capotondi, o anche ci sono anche i tuoi colleghi come Rospellecchia, sì. come Petra Loreggian, insomma Giovanni Vernia, che si può andare anche nel backstage addirittura e vedere come si svolge insomma una diretta come fai adesso tu, no? E o questo per esempio, si sport. Fa esatto, oppure ad esempio anche esperienze sportive sì, per cioè, vedere come un, si allena un campione, cioè Andrea esatto, Paris campione di golf Matteo Manastero, che potrebbe dare una lezione a uno appassionato di golf. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Prima di tutto è una cosa unica che non puoi neanche volendo averla, no? E quindi noi diamo anche la possibilità di regalare a una figlia, a un marito, a una moglie, a un parente, a un amico un'esperienza con un magari fan o qualche passione che ha una persona che può avere questa esperienza. Secondo me è molto carina e in più aiuti a una causa molto importante, insomma, sostegni una situazione molto importante, perché a noi purtroppo serve tutto, da cure mediche a sostegno psicologico, economico. Infatti ho letto famiglie. Infatti alle famiglie che non possono permettersi sì. le cure, le spese purtroppo quotidiane sì. perché esatto. hanno un bambino malato in cura e non riescono a stare accanto a questo bambino, quindi l'idea esatto. è raccogliere dei fondi per sostenere queste famiglie. Esatto, e anche tu le come tutti di gli altri che abbiamo di cui prima appunto abbiamo fatto i nomi, e diciamo vi mettete un po' in palio, non ti turba un po' questa cosa? Che no, dici? per niente, perché siccome da... A parte mi piace moltissimo anche quando mi fermano per strada a chiacchierare con le persone, quindi insomma non mi cambia niente, mi fa molto piacere, primo. Secondo, sai perfettamente, tutti e due, o tutti, insomma, tutti sapremo per quale motivo anche facciamo questa esperienza simpatica, secondo me. E quindi no, ci sono veramente tantissimi personaggi, come hai visto tu, una quarantina credo, mm-hmm. E non abbiamo anche, insomma, stiamo andando avanti. C'è anche una base d'asta onesta per cui tanti, esatto, possono partecipare, non mi si chiede di donare 5.000 euro così, pam. No, ma sai che anche 2 euro a noi fa la differenza, perché con 2 euro tu alleggerisci il bambino, per esempio il bambino dopo l'operazione ha bisogno di antidolorifico e costa circa questa cifra, antidolorifico per un giorno, quindi tu in qualche modo con 2 euro puoi aiutare un bambino a non sentire il dolore. Cioè, sembra una sciocchezza, ma tutto aiuta, tutto aiuta. Tutto aiuta, tutto aiuta. Quindi noi non ci fermiamo e non è che non mi dà fastidio, mi fa molto piacere. Ma tu l'hai già fatto in passato, no? Perché con Sole Terre lavori, mi hai detto, collabori da molto tempo. Esatto, abbiamo fatto di tutto e di più, insomma, tutte le esperienze, abbiamo anche viaggiato, sono andata anche in alcuni paesi a vedere la situazione, parliamo con le famiglie, con i genitori. Siamo in Italia ovviamente molto attivi, addirittura anche nel periodo Covid c'era un aiuto anche, proprio un sostegno psicologico alle persone che purtroppo perdevano i familiari o anche i medici che impazzivano, che non capivano ormai come gestire le emozioni. Insomma, sì, perché quest'anno poi tra l'altro si è aggravata dell'epidemia in corso, quindi... Assolutamente sì, e quindi in qualche modo cerchiamo anche di essere sempre presenti e aiutare anche non solo, cioè insomma vedere le situazioni e cercare di essere utili. Certo, senti, ci sarà qualcuno, hai già fatto anche parte di questa, diciamo, non mi piace chiamarla asta, com'è che possiamo chiamare? No, dai, l'asta dei l'asta sogni, dei sogni. Vabbè, il suo nome, così la gente all'inizio poi se lo ricorda, l'asta dei, esatto, sogni. Ci sarà qualcuno che dice, mi ricordo quella volta che incontrai Natasha Stefanenko e abbiamo detto, tu che esperienze hai avuto? Chiedo a te il contrario, insomma, che persone hai incontrato, che esperienze avete vissuto? Guarda, a me piace moltissimo proprio quando alcuni mi scrivono anche attraverso i social, ma sai, ieri ti ho visto, però mi sono permesso, io sempre rispondo che devono proprio disturbarmi, tra virgolette, perché non è un disturbo, è un piacere, mi piace proprio anche, sai, sono abbastanza semplice in questo, anche camminando, se qualcuno mi ferma, mi fa troppo piacere anche a scambiare due chiacchiere, ma un saluto, un semplice sorriso, perché oggi come oggi questo deve tornare, proprio deve essere più forte, perché noi dobbiamo in qualche modo aiutarci tra di noi, insomma anche con un sorriso che ci aiuta a star bene, star meglio, insomma, in qualche modo, no? E quindi io proprio questi piccole cose mi fanno tanto, tanto, tanto piacere e fanno la differenza, proprio nel mio vissuto ovviamente. Sì, quindi tu dici, per me non è nessun problema incontrare queste persone, in passato hai avuto esperienze positive, quindi capisco. Assolutamente, perché poi c'era anche una cosa simpatica, perché si poteva anche... Si poteva vedere, adesso quest'anno come si poteva vedere, si poteva abbracciare online, e ovviamente adesso un pochino, però aspetta un attimo, la cosa importante è che questi sogni sono realizzabili nel corso del tutto anno, quindi tu se acquisti questo sogno, poi dopo vedendo la situazione ovviamente durante l'anno si realizza quando è possibile realizzarlo, esatto, certo, esatto. Oppure quindi, si inventano le condizioni per se... Sì, no, ma sicuramente, aperto, dai, adesso incrociamo le dita, ma si io credo d'estate, che insomma è tutto finisce, vuole tutto inizia e tutto finisce, esatto, anche questa cavolo di Covid, perdonami, ha rotto le scatole questa Covid. Allora, Natasha, buon e Natale quindi, nel frattempo, sì, siamo grazie, arrivati al termine Natale, della trasmissione. Certamente, io volevo solo dire che basta andare al charitystar.com/AstaDeiSogni2020 e vedere tutte le esperienze che sono diverse, veramente tantissime, che così regalare qualcosa di originale per Natale. Certo, io ricordo anche Sole Terre, che può essere anche lo strumento, diciamo, per arrivare a trovare questa asta dei sogni. Grazie a Natascia Stefanenko, vorrei ringraziare anche Danilo Di Trani e Michele Michelazzo, l'autore di questo programma. In assistenza oggi c'è Alessandro Schirano, Peter Bescapè in regia. Noi ci ritroviamo puntuali domani alle 8.30 da Laura Bettini. Buon ascolto.